Europa 24. Cari amici, un buongiorno da Gigi Donelli. Allora, oggi naturalmente il vertice a Bruxelles. Il titolo riguarda, da un lato, diciamo, la partita italo-italiana, o meglio dell'Italia con Bruxelles e la Commissione Europea, quindi la legge di bilancio, dall'altro naturalmente il tema internazionale e la scelta che oggi campeggia su molti giornali, soprattutto anglosassoni, che viene sintetizzato in un titolo: l'Italia fa da scudo alla Russia. Quindi la posizione assunta con fermezza dal governo rispetto all'ipotesi di sanzioni, caldeggiata molto fortemente dal Regno Unito. Regno Unito che da una parte è, diciamo, in fase di trattative e discussione per la sua Brexit, ma che nello stesso tempo assume una posizione di politica internazionale molto precisa. Questo accadeva ieri. L'Italia ha in qualche modo sbarrato la strada, così dicono i media britannici, all'ipotesi di rafforzare le sanzioni. Questi dunque i due temi, e allora direi di fare la sintesi di questa seconda giornata nel pezzo che sentiamo insieme. Seconda giornata di lavori per il vertice europeo a Bruxelles. La sessione di ieri si è conclusa a tarda notte con la ferma condanna nel documento finale degli attacchi del regime siriano e dei suoi alleati, in particolare la Russia, contro le popolazioni civili di Aleppo, la richiesta di una cessazione delle ostilità e la ripresa di un processo politico credibile sotto egida ONU, ma senza nessun riferimento alle sanzioni invocate da Gran Bretagna, Francia e Germania. A bloccarle, secondo fonti europee, il veto italiano, con il premier Matteo Renzi che ha fatto asse con l'alto rappresentante europeo Federica Mogherini, costruendo una soluzione poi accettata da tutti. Bisogna arrivare a fare tutte le pressioni possibili perché si faccia un accordo in Siria. Difficile immaginare che questo abbia a che vedere con ulteriori sanzioni alla Russia. Il segnale politico comunque resta, come quello sull'immigrazione, che su proposta italiana riconosce lo sforzo dei governi in prima linea. Nelle conclusioni, la richiesta del Consiglio europeo agli Stati membri di intensificare ulteriormente gli sforzi volti ad accelerare i ricollocamenti dei rifugiati da Italia e Grecia. Ma da questo paragrafo si sono chiamati fuori con una nota a piedi pagina proprio i due paesi, Slovacchia e Ungheria, che contestano l'obbligo di accogliere la loro quota di rifugiati e che contro quell'obbligo hanno inoltrato, con l'appoggio anche della Polonia, un ricorso alla Corte europea di giustizia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questa dunque è la situazione adesso, naturalmente, di un incontro che si concluderà solamente questa sera. Pertanto è inutile dilungarci oggi, questi sono gli ultimi aggiornamenti dal fronte europeo. Naturalmente nel corso del pomeriggio vi aggiorneremo su quelle che sono le decisioni assunte a Bruxelles. Resta molto distante ancora invece, restano distanti invece le posizioni sul fronte della gestione dei flussi migratori. Come sapete, l'Italia, attraverso il primo ministro Renzi, lamenta la mancata applicazione degli accordi di distribuzione. Melina in questo senso in particolare dai paesi dell'Europa centro-orientale, e sviluppi rimandati dunque a successive riunioni dell'Unione Europea. Con questo è tutto per i nostri appuntamenti della settimana con l'Europa. Naturalmente ci risentiamo a partire da lunedì. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.